dalla terra dove crescono gli ulivi. Faccio il cacciatore di lupi contadini. Le prede da stanare combattono una guerra, per sfamare i cuccioli difendono la terra. Su queste montagne tramonta la luna che sorge nella valle. Comincio a sentire che non siamo una divisa, non siamo una bandiera, una lingua, una fede, un'idea. Siamo quello che siamo, foglie di un solo ramo, stelle di un solo cielo, che confini non ha. Ieri ho visto un'ombra dietro un muro a secco, il dito che tremava premeva sul grilletto. Ho sentito l'ultimo respiro sulla pelle, ora il suo fucile brilla tra le stelle. L'ho visto giocare con gli amici nella piazza della cattedrale. Ho sentito l'amore della madre che ancora gli prepara da mangiare, della donna che lo aspetta in riva al mare. Siamo quello che siamo, foglie di un solo ramo, stelle di un solo cielo, che confini non ha. Castagni, una domenica mattina sulla strada di campagna, seguivo una farfalla, ricordo la tua voce che ferma la mia mano, ho imparato ad essere quello che non sono. Non sono una divisa, non sono una bandiera, una lingua, una fede, un'idea.